fare tutta. Restoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E benvenuti, benvenuti amici del convento. Siamo in diretta radio con due ospiti di eccezione incredibile, proprio una cosa fantastica. Abbiamo Mattia Matteo, di cognome, giusto? Esatto. Mattia Matteo, esatto. Così. E poi abbiamo... Saluta. Ciao, tutti. Non fa discriminazioni, diretta, tutto. No, assolutamente. Assolutamente, parla anche al microfono qua vicino che viene bene. E poi abbiamo lei che è la ragazza più educata del convento. Esatto, dico sempre buonasera convento. E anche adesso puoi dirlo. Infatti anche stasera dirò buonasera convento. Buonasera convento, ecco la ragazza educatissima che si chiama? Martina, piacere. Martina è una sconosciuta, ecco. Martina senza cognome, sono solo buonasera convento, piacere Martina. Ah, no, Martina, solo questo. No, Martina sono. Matteo? No, non ancora. Ok, allora, vi conoscete? Abbastanza intimamente direi. Allora, pure intimamente? Pure intimamente. E non siamo parenti. Ah, non siete parenti? Però no, allora, non siamo parenti. Allora, vi conoscete intimamente, ma non siete parenti. Esatto. No. Sta al pubblico indovinare cosa siamo. Lui è il tuo dottore? Dipende in che senso si intende. Sì, esatto. Direi ginecologo. Direi. Ah, ginecologo. Esatto. Nel senso che giocate a dottori o fai proprio dottore di professione? Ma guarda, Mattia Matteo. No, faccio rispondere dottore. A lui, guarda. Faccio il fotografo. Ah, quindi la fotografi? Stava per sputarti in faccia, però cosa è successo al momento? Allora, guarda, ho avuto un momento di panico interiore, ma non ti preoccupare, tutto risolto adesso. Per un discorso fotografico? Ma si guarda. Perché lei è stata una Miss Calendario? È calendariata? Non gli hai mai fatto un calendario? No, non l'ho mai fatto un calendario. Però è calendabile. Posso posare per il calendario suo personale se vuole, però non mi ha mai chiesto. Facciamo a Natale. Ah, per Natale. Una brutta idea. Per Natale, ecco, la vestiamo da pino? Da pino? Da pina? Cioè tipo da pino nel senso albero di Natale con le lucette? Eh sì, cosa ne pensi? No, la Martin con le lucine tutte intorno, secondo me è illuminante come cosa. Sarei illuminante secondo te? Martin, dove mettiamo la punta dell'albero? No, chiede Mattia, allora, per un amico. Chiede Mattia per un amico. Chiede per un amico. Di solito si fa così, no? Per chi vende il calendario. Faccio rispondere a lui. Ecco, no, Mattia è il creativo, giusto? Mattia, la punta della... Dove la possiamo posizionare, tu che sei artista? Tu che sei artista, tu che sei fotografo, cosa ci dici? No, allora io sto studiando fotografia. Sta ancora studiando, Ah, ma sta alzando le mani in questo momento, non vale. Alza le mani, hai visto. Non ruberei mai la scena a un fotografo professionista. Quindi tu, ecco, così alle... Invece la Martin è regista, giusto? Sì, non mi era appunto regista, però ho studiato regia, quelle cose lì. E quindi per contropasso, insomma, quelle due ti fa le foto. L'album fotografico per Natale. Io gli faccio il video invece, ecco, hai capito? Sempre vestito d'albero di Natale. Almeno posso guadagnare qualcosa, dato le nuove tecnologie, le nuove app, i nuovi siti. Però la Martin sa di sicuro dove mettere la punta dell'albero a Mattia. A Mattia, dove la posizioniamo? Ma guarda, avrei varie idee, però non spoilerò nulla, dipende da chi vedrà il video. Ascolta, esatto. Dobbiamo lasciare un po' di suspense, capito? Magari la punta c'è già. Olla, attenzione. Ma chi, da me o da te c'è la punta c'è già? Da me. Da te, la punta c'è già. E da chi? Da Ciro? Chiamiamo in causa anche Ciro adesso. No, non lo so, chiamiamo in causa anche Ciro in questo momento. Adesso non è qua con noi attualmente, però è il barman del convento, grande amico. Ringraziamo assolutamente. Diciamo chiaramente che Martina è gelosa di Ciro. Sei gelosa di Ciro? Esatto. Ah, perché ci prova con Mattia? No, perché Mattia ci prova con Ciro. Ah, Mattia ci prova con Ciro? Sì, perché Ciro è la mia anima fedele del convento, capito? Quindi nessuno può rubarmela. Mattia è una punta di un albero secondario in un certo senso, non so come dire. Ah, quindi è più punta di più Ciro che te, cioè mantieni di conto Mattia. Però dipende da chi lavora meglio, insomma. Cioè, illuminerò poco. Ma quest'estate siete andati in vacanza? No? No, non ancora, no. Andremo in vacanza ad ottobre in Sardegna. Ottobre in Sardegna? Esatto, sì. Assolutamente sì. Quella, come mai ottobre? Ma perché l'ha scelto lui, è un periodo così. Perché non ho ancora fatto una settimana di ferie. E quest'anno ottobre per andare a chiudere la casa che ho in Sardegna. Non c'è nessuno. Si può fare, esatto, il calendario lì a questo punto. Esatto, no, è tutto calcolato, capito? Vestita, tutto calcolato. Di Natale al mare. Non c'è nessuno, fa ancora caldo, si può fare il bagno. Sì, però io la voglio vestita da albero di Natale. Vabbè, facciamo anche ad Hawaii, lo festeggiano comunque Natale. Sì, cioè, no, tu fai tutti i mesi, però a dicembre la voglio in spiaggia vestita da albero di Natale. Cioè, la marcia. Facciamo un calendario solo per te, Sandrina, a questo punto. Perfetto. Ci dà le idee, noi facciamo gli scatti, fa la parte director. Vi sto dando i compiti per le vacanze, va bene? Capito. Si può raccontare come vi siete conosciuti? Noi ci siamo conosciuti in Accademia di Belle Arti, facendo due indirizzi diversi, in anni diversi. E io mi sono trovata di fronte ai corridoi, alle macchinette del caffè, un rompiballe che mi diceva: sei una fancazzista. Ah, ti sgridava? Sì, mi sgridava, hai capito? Una fancazzista perché non si, cioè, io la vedevo solo in giro, o con la birra in mano in laboratorio, o sempre in giro alle macchinette del caffè. Quindi da lì è iniziato fancazzista, perché tutte le volte che io la vedevo era sempre in giro e quindi potrei dire lo stesso. Però comunque, appunto, c'è da dire la cosa, esatto, perché tutte le volte che ti vedeva, esatto, uscivo per forza dalle aule, dovevo vedere qualcuno. Ma era casuale o la seguivi già? Cioè ti aveva già colpito? Allora, in realtà aveva già colpito in accademia. Poi con un progetto che abbiamo avuto in comune, dove abbiamo fatto questo metaverso dell'accademia all'interno delle opere, tra cui una delle mie, ci siamo incontrati, esatto, in cui mi diceva già, cioè mi continuava a dire: sei una fancazzista, vai a lavorare, insomma, fancazzista, perché la vedi, esatto, voi. Quando io ero lì dalla mattina a farmi un culo così, insomma, lui mi diceva fancazzista, perché io non faccio niente, no, lui scattava un paio di fotografie, basta, hai capito, basta. Questo, quello che si dice è che un fotografo schiaccia solo un bottone e il resto non fa niente. Non fa niente, lavoraccio. Vabbè, come un regista dicono che cioè che faccia un video con l'iPhone e basta. E basta, perfetto, mi sembrano dei lavori qualificati, mi sembrano dei lavori qualificati. Quindi tu hai iniziato a riprenderla, la fancazzista? Però già ti aveva colpita o... Già mi aveva colpito e non si diceva, però, non potevi dirlo. No, era troppo orgoglioso per dirlo, diciamo. Applicavi la tecnica... Ci è voluto un bel po'. Quasi... Ma un bel po' per convincerla o un bel po' perché tu hai manovrato la cosa con la tecnica, la tratto male, non mi interessa, la snobbo? Secondo me lui aveva adottato quella tecnica lì, però anch'io l'avevo notato in realtà. Tu avevi già notato anche lui? Sì, avevo già notato il bel faccino che mi chiamava fancazzista. Ah, quindi fancazzulavi apposta, esatto, per farti riprendere. Alla fine lei voleva lavorare, ma sapeva che tu l'avresti continuamente... Quindi non facevo un cazzo solo per tirarmelo intorno, diciamo. Esatto, cioè era una tecnica, hai capito, Mattia? Assolutamente sì. E tu non avevi capito questa tecnica della... No, ma guarda, possiamo dirlo sinceramente, se aspettavo lui, buonanotte. Buonanotte? Esatto. Quindi alla fine ha fatto la prima mossa io. Alla fine ha fatto la prima mossa la fancazzista. Cosa ha fatto? Esatto. Si è girata di colpo dalla macchinetta? No, mi sono girata di colpo sul set in cui lavoravamo. Esatto. E ho detto: senti, bello, ma se ti invito a uscire cosa facciamo? Veramente? E tu io ho detto sì, una birretta insieme. Ah, così. Allora, sì, rievochiamo la scena. Adesso faccio io il regista. Allora, Galeotto fu quel set. E quando no, si no, gira... No, in realtà era... Sì, un set, possiamo dirlo. Era una conferenza che abbiamo svolto al Vittoriale, sì, degli italiani. E a fine giornata, dopo l'aperitivo finale della giornata, io stavo mettendo via l'attrezzatura. Lei era salita a prendere le sue cose, sì. E a un certo punto si gira e mi dice: ma se ci facciamo una... Boh, se usciamo insieme, cosa dici tu? Sì, Mattia, esatto. Ma sono cambiati detto, tempi, credimi. Assolutamente sì. E l'ho spiazzato, possiamo dire. Ma io sono d'accordissimo che anche la donna fare il primo passo. Ah, sei d'accordissimo? Sei un pancazzista te alla fine, sei un pancazzista dell'approccio. Tu sei favorevole alla donna che faccia il primo passo? No, di solito è il maschio, dai. Però sono contento se ne trovo una che fa il primo passo. Benvenga. Ma sai, guarda, che secondo me non sono tante che fanno il primo passo. No, parlando con le mie amiche anche, loro non sono quelle da fare il primo passo. Loro dicono no, aspetto lui, perché? Perché di qua, perché di là. Io dico guarda, secondo me la vita è breve, è tanto bella, e secondo me non ne vale la pena di aspettare tanto tempo per una cosa stupenda. Infatti hai sentito che dichiarazione, visto che era una cosa stupenda Matti Matteo, Matti Matteo. Lei era stanca di fancazzulare, ha detto qua mi devo dare da fare. Ho fatto un anno a fancazzulare, poi ho incontrato una persona che secondo me adesso è meravigliosa, e ho detto guarda, usciamo insieme, ma cosa dici? Ti rendi conto? Sì. Ma che cosa ti è piaciuto di Martina? Tante cose mi sono piaciute di Martina. Innanzitutto è molto simile a me. E non avrei mai pensato di trovare una persona così simile. Ah, tu sei simile a Martina? Ebbene sì, in tante cose sì, soprattutto nella testardaggine. Siamo proprio due sassi. Segno zodiacale? Bilancia. Toro. Toro e bilancia, ok, non me ne intendo, però vabbè. Toro è tosto, bilancia equilibra. Insomma, diciamo che andiamo abbastanza d'accordo. No, andiamo d'accordo, assolutamente. Anche la Martin è tosta, però Martin, tu sei tosta, avrai l'ascendente toro per forza. Non lo so, in realtà ascendente bilancia, ti dico. Poi non sono esperta di segni zodiacali. Appena sento qualcuno parlare di segni zodiacali mi allontano, tipo dici, di 6 chilometri, perché non mi interessa. Non ti interessa sta roba. Esatto, okay. Penso siano tutte stronzate. Mi dispiace perché mi ascolti. Cosa? Vuoi uscire con me, che segno sei? Oh, ma guarda. Guarda. Hai visto che roba? Hai visto. No, quindi ti è piaciuta perché è tosta? Assolutamente sì, è tosta. Ma fisicamente, perché gli amici da casa, allora, chi non vede la web non vede Martina. Invece chi adesso è collegato vi vede anche lì in diretta, vedi. Però per chi ascolta, cioè, cosa ti è piaciuto di Martina? Cioè, cosa ha di bello Martina? Fisicamente? Fisicamente, di primo impatto, il sorriso. C'ha il sorriso. Ha un sorrisone. C'ha il sorrisone. Cioè, te ti ha preso il sorrisone. È una ragazza anomalo, cioè, di solito. Però, il sorriso. Di solito, sai, ragazze dicono: ma guarda, c'hai dei begli occhi stupendi. Ecco, gli occhi sono sempre il sorriso, per camuffare. Capito? È lui alternativo, no? Alternativo. Quindi il sorriso. E a te, Martin, il faccino, giusto? Ma sì, guarda, l'ho guardato bene. Perché c'è molto da guardare. Prima, cioè, uno dei primi complimenti che gli ho fatto è stato: hai un naso grande, lo sai. E il secondo, dopo quando ha tirato giù le braghe? Mi dissocio da questa cosa. Che cazzo ridi, Sandrino? Non lo so, vuoi controllare? No, io vuoi mi vado conferma? No, vado sulla fiducia. Ecco. Ma guarda, se noi chiediamo a Ciro, che secondo me. Ah, Ciro l'ha già controllato? Ciro, cioè, ricordiamo che Ciro è il nostro collega, ecco, cioè, perché magari dico sì, chi esatto, è Ciro? Ecco. Esatto, Ciro, con Ciro ci faccio un discorsetto più tardi perché sta marcando male e mi dà un po' fastidio. Ah, perché cosa. Te lo sta puntando? Sta puntando da un po' in realtà, ti punta, capito? Sarà per il faccino o per il naso grande? Ma guarda, secondo me per qualcos'altro di grande, però il non so sotto qua, naso grande. Dire per niente. Il sotto naso grande. Ecco, guarda chi c'è, casomai. Ecco, parli del diavolo, spuntano i cigni. Esatto. È incredibile questa cosa, comunque. Cioè, spuntato Ciro per davvero. Parlando, Sandri, tu usciresti mai con una ragazza che la prima cosa che ti dice in un appuntamento è: ma di che segno zodiacale sei? No, perché io sono vergine, sono ascendente gemelli, toro di sto cazzo. Tu cosa diresti? Esatto. Ma io ormai, tu cosa diresti? Allora so ormai che sono fuori, che me la che sono lì e devo, ormai sono già fuori. Devi giocartela, insomma, hai capito? Dipende, allora, magari la volta dopo non ci esco più, però me la gioco in serata, ecco. Ah, vediamo, hai capito. Cioè, te la giochi dopo il parla, insomma. Esatto, diciamo, vediamo come va la serata. A proposito, primo appuntamento, è scattato subito qualcosa oppure no? Cioè, primo appuntamento, primo bacio o non si fa? No. Oh cazzo, qua è un po' si... Cosa consideriamo come primo appuntamento? Primo appuntamento in realtà non è che ci sia mai stato in realtà. Ma con l'uscita perché... quando tu l'hai detto. Ma amici di casa. Amici di casa. Io gli ho offerto l'appuntamento e lui non si è fatto più sentire. Cioè ci siamo come? Visti. Avevi detto perché no? Hai capito. Poi com'è? Ci siamo visti in giro. Ci per, siamo visti per l'accademia. Ci siamo visti in una situazione accademica esterna, quindi l'accademia ci ha offerto una cena, insomma, senza qua spiegare tante cose, insomma, a certi studenti ha offerto una cena all'accademia, ci siamo incontrati di nuovo lì, sì. E lì è scattato tutto praticamente. Ah, in quella serata lì, quindi esatto. A fine serata. Esatto, però non l'hai presa tu? L'iniziativa l'ha presa Matteo Mattia? L'iniziativa quella volta lì l'ha presa lui, è stata molto apprezzata come iniziativa. Esatto. Anche se la serata non è stata organizzata da né me né lui. Ok, ma te lo aspettavi che prendesse l'iniziativa? No, assolutamente no, per niente proprio. Ok, e esatto. Vediamo se seguite la mia teoria, cioè vai. Il primo bacio è fondamentale, nel senso la sensazione che provi. Allora, io ho provato una sensazione stupore, prima di tutto perché come ripeto, non me l'aspettavo, tutta una situazione è stata serata bellissima, insieme a lui abbiamo parlato un po' di cose, cose belle, cose brutte, non mi aspettavo il bacio, in quel momento insomma, mi sono scattato dentro tante emozioni, vibrazioni. Non lo nascondo. Non nego neanche che mi sono spostata dopo un po'. Ah, subito? Cioè, esatto. Hai detto. Gli ho detto, Ciccio, va bene il biscottino, però stai calmo un attimo. Il gioco delle parti ha fatto bene, no? Tu l'hai apprezzata questa cosa? Assolutamente sì, sono stato d'accordo. È stato. Una cosa impulsiva, possiamo dire. Non lo so se è impulsiva da parte impulsiva, tua. Impulsiva, ma. Studiata. Stavi già studiando, quindi tu. Ma già dalla cena. Siamo usciti prima il pomeriggio insieme, comunque eravamo andati al lago a fare il bagno, insomma. Ah, quindi avete passato la giornata. Avevamo passato il pomeriggio insieme, poi avevamo questa fantomatica cena, abbiamo fatto l'aperitivo a casa sua con altri due compagni invitati a questa fantomatica cena. E poi da lì è partito tutto quanto. E da lì, seduta accanto a lei, ho detto sì. E adesso gli tiro il limone? No, non gli ho tirato il limone, ho tentato di tirare il limone. L'hai schivato il limone. Poi ha schivato il limone. Caspita. Come consiglio a tutte le ragazze che stanno ascoltando, non bisogna dare tutto subito, bisogna fare un po' desiderare. Che cavolo, però magari uno si abbatte, già era pigro e dice che già era pigro. Se fosse stato veramente pigro non si sarebbe più fatto avanti, secondo me. Se invece ci teneva, il maschio si fa ancora più avanti dopo. Ma magari si abbatte e si prende male, dice è rischiato di abbatterti o no? No. Hai detto non mollo. Non mollo. Grande. Anche la mia idea è sempre stata, anche se mi dici no, non mollo. Grandissimo, perché... vedi, ostinato, grande. E quello era una delle cose che mi è piaciuta, quella. Siete uguali, grande, bella questa, brava. E comunque la sensazione che hai provato dopo quando l'hai baciata, cosa hai detto? Cosa hai detto? Ci siamo, quella. Rischiamo di diventare fidanzati così, cioè. Sì. No, perché a volte magari ti piace una, la baci, ma poi non. Non succede niente, ecco. C'hai ragione, no. In realtà ho avuto subito appena baciata un sentimento di sollievo. Sì. Il mio corpo si è lasciato andare del tutto. Ah? E ho detto sì, ok, è quella giusta. Ah, così hai percepito. Ebbene sì. Adesso piango in live. Adesso piango. Mi piace dire. No, ma sì. Sei importante. Cioè, non te l'ha mai raccontata la sensazione. Vedi che non me l'hai raccontata. No, così non me l'ha mai raccontata. Vedi, la sto facendo apposta io perché. Andri, sei una merda. No, ma è bello perché alla fine quando si raccontano le cose, cioè anche chi ci ascolta, è vero. Non si va nel profondo, no? Cioè, dice ok, sono baciati, che bello, ale. Però capire cosa ha pensato uno in quel momento. No, esatto, perché ci sono coppie che non provano veramente niente. Insomma, in certe situazioni dipende anche dalle persone, secondo me, si provano certe cose, poi dipende dalle persone, situazione, tutto quello che si è vissuto prima, tutto quanto. Però anche chi ci ascolta a casa avrà provato le stesse cose, cioè a volte. Ma guarda, esatto, dipende, insomma, secondo me, cioè, spero ci sia gente che abbia provato le stesse cose perché è una cosa bellissima a mio parere. Non nego neanche che anch'io non ho provato niente quando ho baciato certe persone prima di lui, capito? Che sì. È una cosa normale, insomma, non è che devi sentirti in colpa perché non provi niente nel baciare una persona, no. Semplicemente non è la persona giusta per te, a mio parere. Però è un discorso di chimica, no? Cioè, a volte anche. Ti piace qualcuno, poi lo baci. Sì, va bene. Esatto, però non scatta quello. Non scatta. E invece alcune persone le baci e dici: ma cos'è sta roba? Cioè, esatto. Che è poi quello, volevo sapere se c'è stata il baci, film, ma cos'è sta roba? Tu puoi dire le baci, oppure ci parli di un certo argomento, puoi passarci un pomeriggio insieme, puoi passarci una serata insieme, tante cose sono. Non è che è semplicemente il bacio che scatta così immediatamente. Ci sono tanti fattori. A mio, secondo me, poi tu non so se mi. No, seguo perfettamente il tuo discorso. Sono tanti fattori che poi portano a dire che quella persona magari potrebbe essere quella giusta, esatto, per te. Poi nella vita non si sa mai. No, ma no, ma certo, ma no, ma poi è un discorso esatto, lunghissimo, ma no, un discorso lunghissimo, poi però la sensazione è importante, cioè quello che ti viene distinto in quel momento, no? Cioè, se c'è quello, ma guarda, è già il figo. Sinceramente, io distinto, quando mi ha baciato, gli sarei stato addosso. Proprio. Sì. Ah, selvaggiamente proprio? Sì, con tanto amore, con tutto quello che avevo da dare. Ah, c'è stato proprio. Sì. Ah, che storia, vedi. Poi mi sono contenuta perché ho detto: vediamo fino a che punto vuole spingersi lui. Poi è andata avanti, è andata avanti, insomma, ha proseguito, esatto, eccetera. Adesso siete ufficiale o ufficioso? Siamo insieme. È ufficiale. Sì. Ecco, signori amici ascoltatori, DJ Martin è ufficialmente fidanzata. Convento vuoto adesso. Quindi, basta, zero ascoltatori. Basta. Matteo Mattia sarà sempre qua con me. Spero che la gente venga ancora a sentirmi al convento. Certo. No, però anche le pretendenti di Matteo Mattia, perché anche Matteo Mattia già avrà delle pretendenti, immagino. No, lì. Io non ne sono a conoscenza. È ambito all'università. Secondo me sì, secondo te sì. Fa un po' lumine in questo momento. Sì, io non ragazzo umile, Matteo Mattia ragazzo umile. Non ne so di pretendenti. Va bene, facciamo la maglietta Matteo Mattia. Sono quindi ragazzo. Dico a tutte le ascoltatrici: Matteo Mattia è impegnato attualmente con la DJ. Ecco, quindi girate a largo. Ecco. Altrimenti sono cazzi, posso dirlo. Esatto, quindi attenzione che Martina graffia. Ok, adesso dobbiamo sostituirci. Perché voi non vi sarete accorti, però stiamo parlando da 22 minuti. Porca vacca, hai capito Sandrino? Quanto sei bravo nel tuo lavoro a impegnarci in questi discorsi. No, ma mi sono fatto prendere anch'io, quindi dobbiamo salutarci. Ciao ragazzi. E far pensare a tutti quelli che ci hanno ascoltato. Credete nell'amore, che è una cosa bellissima. Le loro sensazioni, così gli viene in mente quello che hanno fatto anche loro, esatto, o faranno. Credeteci sempre. Ciao da Martina. Ciao belli. Ciao a tutti. Ciao da Mattia, Matteo. Double fast. Salutiamo così Mattia, Matteo. Alle prossime volte un saluto, grazie Sandrina. Aspettiamo le prossime ragazze che stanno per entrare, esatto, qua al convento. Esatto. Ciao ragazzi. Ciao convento. Ciao. Con il DJ Carlone, Ristoradio Convento. Allora, sì.